perfetto giorno di Simone Spezia. Dalla Francia il dato finale: Macron vince col 66% del nuovo presidente. La prima visita di Stato sarà a Berlino. Le Pen annuncia il cambiamento del fronte nazionale. Migliaia di migranti salvati nel fine settimana e due naufragi. Ci sarebbero 200 vittime nel Mediterraneo. Le norme sul bail-in sono state un fattore di instabilità, dice la Consob, che avverte l'Italia si prepara ad una stretta monetaria. L'uscita dell'Italia dall'euro sarebbe uno shock per tutta l'area. Pomezia, a tre giorni dal rogo, ancora poche certezze. Forse amianto incapsulato nelle coperture dell'azienda, scuole chiuse fino a domani e divieto di raccogliere ortaggi. Maxi operazione dei NAS con 19 arresti tra medici e imprenditori del settore farmaceutico, corruzione e riciclaggio tra le accuse. A Milano si apre Tutto Food, attesa per l'arrivo e lo speech di Barack Obama. L'ex presidente americano forse incontrerà oggi Renzi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo in diretta oggi da Tutto Food, qua a Milano, nella fiera di Milano, a Rho, la fiera internazionale del business to business dedicata proprio al mondo del cibo, arrivata alla sua quinta edizione, ed è per questo motivo e per una serie di questioni tecniche che non andremo in onda come facciamo di consueto in diretta sulla nostra pagina Facebook, così come qua non abbiamo WhatsApp. Si torna all'antico, se volete contattarci ci sono gli SMS, abbiamo un fax qua? No, non ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo, però non siamo in grado al momento di darvi il numero, vedremo. Allora, andiamo alle prime notizie di giornata, che sono quelle che naturalmente riguardano la Francia e quello che succede dopo l'elezione di Macron. Siamo in diretta con il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Sì, la Francia si è svegliata stamattina con un nuovo presidente, il più giovane della storia repubblicana, il presidente tra l'altro Emmanuel Macron, che è già apparso in pubblico perché oggi qui è festa nazionale, la festa per la vittoria degli alleati sui nazisti, quindi una festa molto sentita in Francia. C'è stata una parata militare intorno alle 11 con Hollande, presidente uscente, e Macron, presidente entrante, che hanno omaggiato appunto il milite ignoto sotto l'arco di trionfo su Champs-Élysées. Anche un movimento molto interessante da vedere, quei presidenti vicini, con Hollande che in modo molto evidente aiutava Macron ed era ben felice di avere lui e non Marine Le Pen a fianco. Macron prenderà ufficialmente funzione come nuovo presidente, ottavo presidente, domenica, quindi Hollande si dimetterà domenica e Macron entrerà facente funzioni. La prima visita sarà a Berlino, lo avete già detto, e si è anche Emmanuel Macron già dimesso da presidente di Amarci, il suo partito, che ora dovrà comunque in qualche modo prepararsi alle elezioni legislative di giugno, un appuntamento fondamentale per evitare poi una coabitazione al potere con un premier potenzialmente ostile. Questo è il giorno dopo in Francia, e da Parigi restituisco la linea allo studio. E grazie dunque a Sergio Nava per questo aggiornamento da Parigi, il nostro inviato Sergio Nava, che ha anche intervistato François Lafon, che è un politologo, insegna a Science Po, sentiamolo. Bisogna ancora aspettare veramente le legislative tra un mese, cioè l'11 e il 12 giugno, per sapere se la Francia volterà completamente di pagina. L'inno europeo ha introdotto Macron ieri sera al Louvre. Si apre per l'Europa una pagina importante, una pagina nuova forse dopo lo shock della Brexit. Macron ha decisamente, l'ha detto diverse volte, è un europeista, vuole rinforzare l'asso franco-tedesco e rilanciare la costruzione europea. Sicuramente ci saranno alcune questioni importanti, cioè sulla differenziazione, su delle problematiche che non saranno piacevole per tutti i 27 o 28, ma comunque ha decisamente un orientamento molto più europeista di ogni candidato alle elezioni presidenziali di quest'anno. Con Macron forse anche l'iniziativa per un ministro delle finanze europeo, per un budget dell'Eurozona che lui ha già preventivato? Sì, questo è una delle cose che aveva menzionato anche quando era ministro delle finanze in Francia, cioè di fare di tale modo che la costruzione europea riparte dal nocciolo dell'Eurozona, presidenza della zona euro, un comitato dentro il Parlamento europeo per fare sì che la zona euro ha anche un nocciolo democratico e che si discute di quelle affari monetarie anche dentro il Parlamento europeo. Anche un budget, l'ha detto diverse volte anche durante la campagna, tutto questo è già stato menzionato diverse volte e adesso aspettiamo che lo fa effettivamente, così rilancerà davvero la Costituzione europea. E veniamo alle reazioni internazionali. Congratulazioni a Macron da tutti i leader europei per la schiacciante vittoria alle presidenziali francesi contro Marine Le Pen, un segnale forte contro nazionalismi e populismi dilaganti. Il presidente del Consiglio Gentiloni ha scritto su Twitter: «Evviva, una speranza si aggira per l'Europa». Stesso messaggio da parte di Renzi, appena rieletto segretario del PD. Per il capo dello Stato Mattarella, l'elezione di Macron costituisce una prova di fiducia nel futuro e un segnale di adesione all'ideale di integrazione continentale. Il presidente della Commissione europea Juncker ha sottolineato invece come i francesi abbiano fatto la scelta per un futuro europeo. Quella di Macron è una vittoria per un'Europa forte e unita, ha detto il portavoce di Angela Merkel, la quale ha fatto i suoi complimenti al neopresidente francese al telefono. E peraltro sarà proprio a Berlino che Macron farà la sua prima visita all'estero. La premier britannica Theresa May, nel pieno delle trattative per la Brexit, si dice pronta a lavorare con Macron su molte priorità condivise. Solo dopo molte ore dalla vittoria, invece, Mosca ha fatto sapere che Putin ha mandato un telegramma al nuovo inquilino dell'Eliseo in cui lo invita a superare le diffidenze reciproche. Mentre il presidente americano Trump si è subito congratulato su Twitter. «Non vedo l'ora di lavorare con lui», ha scritto. Ma secondo i più convinti anti-europeisti la vittoria di Macron non è definitiva. «Milioni di patrioti hanno votato per te», ha twittato l'olandese Wilders in un messaggio a Marine Le Pen. «Vincerai la prossima volta e anch'io», ha scritto. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e veniamo alla relazione annuale della Consob di questa mattina. Un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Importanza della Banca Centrale Europea nella difesa dell'Eurozona, limiti del cosiddetto bail-in, conseguenze di un'ipotetica uscita dell'Italia dalla moneta unica, gestione dei crediti deteriorati, sono alcuni dei passaggi più importanti della relazione annuale di Giuseppe Vegas, ultimo discorso da presidente della Consob, visto il mandato non rinnovabile e in scadenza a dicembre. L'Italia dovrà prepararsi ad affrontare la nuova situazione che si profila, non potendo più contare sul puntello esterno della leva monetaria, spiega Vegas. L'inflazione si sta progressivamente riportando in prossimità dell'obiettivo del 2%. Da qui la riflessione del presidente della Consob sull'importanza del quantitative easing della BCE ha ridotto la pressione su quei paesi come il nostro che più di altri avevano bisogno di recuperare terreno sul piano della competitività. Altro capitolo, le banche e il bail-in, o meglio il salvataggio interno. Il primo e provvisorio bilancio di applicazione non può dirsi positivo, spiega Vegas. Sentiamo questo passaggio. Prodotti a basso rischio presenti nel portafoglio di tanti piccoli risparmiatori si sono trasformati di colpo in prodotti rischiosi e inadeguati. Il primo e provvisorio bilancio dell'applicazione del bail-in non può certo dirsi positivo. Le stesse regole che l'Europa si è data per assicurare stabilità si sono rivelate in questo caso un fattore di instabilità. Alla prova dei fatti, l'idea di circoscrivere ai soli investitori di una banca i costi del salvataggio si sta mostrando illusoria. Un Italexit, ovvero un'uscita dell'Italia dall'euro, sarebbe uno shock per l'intera eurozona, dice ancora Vegas, ne metterebbe a rischio la sopravvivenza. Infine i crediti deteriorati, la possibilità di ricavare margini della vendita non va lasciata agli operatori esteri, dice il presidente Consob. E per il momento è tutto, linea allo studio. E grazie dunque Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Veniamo alle cronache dalle migrazioni. Molti arrivi nel fine settimana, 6.000 persone salvate nel Mediterraneo e purtroppo ancora dei naufragi con delle vittime. Ancora due naufragi nel canale di Sicilia e ancora morti. Nelle ultime 24 ore le vittime sarebbero circa 200, denuncia l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. E questa volta i trafficanti hanno imposto nuove modalità di viaggio ai migranti. Gli scafisti, raccontano i superstiti sbarcati a Pozzallo, hanno tolto il motore al gommone dove erano stipate circa 120 persone e sono tornati indietro. Ma poco dopo, mentre la gente si agitava, si è rotto il fondo dell'imbarcazione, il gommone si è capovolto e sono annegate almeno 80 persone. Alcuni cadaveri sono già stati ripescati da una nave impegnata nei soccorsi e ora sul naufragio indaga la procura di Ragusa. Tra sabato e domenica nei porti siciliani e calabresi sono arrivati 2.120 migranti e, secondo stime dell'Agenzia ONU per i rifugiati, altre 6.000 persone sono in arrivo. Cifre che, dice l'alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, dimostrano come il salvataggio in mare sia più cruciale che mai e spezza una lancia in favore della Guardia Costiera italiana e delle ONG. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di immigrazione, di migranti, torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno. Ci occuperemo di quello che è successo a Milano, dove un richiedente asilo del Mali si è tolto la vita. Il suo corpo è stato trovato ieri. Cercheremo anche di fare un punto sull'accoglienza proprio nella città di Milano, che è un punto centrale, naturalmente, dal quale passano in molti. Siamo alle cronache, invece, dall'incendio che c'è stato nel Lazio, a Pomezia. Scuole chiuse fino a domani nel comune di Pomezia e divieto di raccolta ortaggi e pascolo di animali nel raggio di 5 chilometri e quanto stabiliscono le ordinanze dei due sindaci di Ardè, Pomezia e comuni più interessati dal rogo dell'impianto di stoccaggio EcoX di via Pontina Vecchia. Preoccupazione in particolare per l'eventuale diossina sprigionata dalla plastica bruciata e per la presenza di amianto incapsulato e cioè trattato per non nuocere in condizioni normali sul tetto dello stabilimento, presenza confermata dall'azienda sanitaria locale. Intanto proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco degli ultimi focolai. Una volta concluse verrà consegnata una relazione alla procura di Velletri che potrebbe presto passare dall'ipotesi di reato di rogo colposo a disastro ambientale. Si attendono anche i risultati delle analisi dei campioni effettuate dal Centro Regionale Amianto della ASL di Viterbo e dall'ARPA. Intanto in allarme sono gli agricoltori, col diretti e C hanno già preannunciato di costituirsi parte civile per i danni diretti, indiretti e d'immagine provocati dall'incendio. In questi minuti infine è in corso un incontro urgente tra i sindaci, l'ASL Roma 6 e l'ARPA Palazzo per fare il punto della situazione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E di questo torneremo a parlare tra poco, lo faremo proprio col sindaco di Pomezia per fare un punto sulla situazione. Veniamo a Milano adesso, dove c'è grande attesa per l'arrivo dell'ex presidente americano Obama, che forse incontrerà anche il segretario del Partito Democratico Renzi. Annarita D'Ambrosio, buongiorno, Obama è arrivato? Buongiorno Simone, sì, è arrivato in perfetto orario, pochi minuti dopo mezzogiorno, l'ex presidente americano, casual, vestito casual, jeans e giubbotto di pelle, è atterrato all'aeroporto militare di Linate accompagnato dal suo numeroso staff. Poi con un corteo di 14 autovetture si è diretto nell'albergo dove alloggerà in questa due giorni milanese, il Park Yacht, che è in pieno centro a pochi passi dal Duomo di Milano, lo stesso albergo dove due anni fa erano state la moglie Michelle e le figlie in occasione di Expo. E adesso all'esterno dell'albergo c'è una folla abbastanza numerosa che attende l'uscita. Perché? Perché la moglie ha consigliato ad Obama la visita al Duomo e quindi, poiché l'albergo dista davvero pochi passi, si aspetta l'uscita dell'ex presidente americano a piedi, dovrebbe percorrere la galleria e visitare il Duomo. Il giorno clou è sicuramente domani, quando ci sarà l'appuntamento pubblico e in questa sala da 3.500 posti, dove sono accreditati 400 giornalisti e dove si pagava 850 euro per ascoltarlo. Quanto alla giornata di oggi è abbastanza top secret, si sa certamente che ci sarà la cena riservata all'ISPI questa sera a Palazzo Clerici e che dovrebbe incontrare, come dicevi tu, il segretario del PD Matteo Renzi, già oggi in giornata, insieme anche ad alcuni ministri in carica, dovrebbe esserci Calenda e la Fedeli, forse anche alla cena di questa sera. Domani, poi, prima dell'appuntamento pubblico, dovrebbe vedere Letizia Moratti e il figlio Angelo, il finanziere Francesco Micheli, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina e l'ex premier Mario Monti. Per il momento Simone è tutto. E questa dunque è la cronaca dell'arrivo di Obama, Obama che appunto parlerà a Tutto Food, manifestazione dalla quale vi stiamo trasmettendo oggi a Rone, nella Fiera di Milano. Vediamo se è pronto proprio il servizio dedicato a Tutto Food e anche all'export italiano. Sentiamo. L'export dell'agroalimentare italiano è diventato uno dei motori principali della penetrazione del Made in Italy nel mondo. Lo certifica uno studio del Censis presentato oggi all'apertura di Tutto Food, fiera biennale dell'agroalimentare. Pasta, pizza e vino sono tre prodotti particolarmente premiati nei livelli di consumo globale, ma tutte le esportazioni sono in crescita, con un più 33% nel quinquennio 2010-2015 rispetto a un più 22% registrato dall'export complessivo nello stesso periodo. Dei numeri commentati molto positivamente da Michele Scannavini, presidente dell'Agenzia Italiana per il Commercio Estero. È un momento particolarmente positivo, abbiamo avuto dei risultati dell'export molto incoraggianti ed è una crescita quasi doppia rispetto alla crescita del totale export italiano. Quindi il cibo è un settore trainante. Ma quali sono le tendenze nei consumatori internazionali che favoriscono questa crescita del nostro export? La necessità di avere un cibo che ha una sicurezza di natura alimentare molto forte e certificata, l'autenticità, l'aspetto salutistico, sono tutte cose che si ricollegano molto bene al cibo autentico italiano. Nicola Scevola per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E queste dunque le cronache da Tutto Food. A chiudere questa prima parte della trasmissione, beh, dopo questo fine settimana di calcio e di sport in genere, perché c'è stato anche il motociclismo, un punto come sempre con il nostro Carlo Genta. Ciao Carlo, ci sei? Ciao Simone, sono qui. Sì, tu sei qui, noi siamo qua alla fiera, dove, alla fiera di dove Milano, sarò dove anche tu io arriverai mercoledì e giovedì. Arriverai sì. Mercoledì e giovedì. Senti Carlo, allora, che fine settimana è stato? Beh, è stato un fine settimana che, tanto per cominciare, non ha incoronato la Juventus campione d'Italia ufficialmente dopo l'1-1 nel derby di Torino, con molte polemiche, molte contestazioni, molte grida. La chiara, larga vittoria della Roma ieri sera con un Milan che rende depressiva e depressissima la primavera calcistica di Milano, tanto che ha perso anche l'Inter, ennesima sconfitta, quinta nelle ultime 5 partite, 1-0 a Genova con il Genoa. Per il resto la giornata segnala una Lazio straripante che conquista l'Europa battendo 7-3 la Sampdoria. Una lotta a salvezza che si riapre perché vince il Crotone, vince l'Empoli, vince il Genoa e dunque in extremis una lotta a salvezza che a Natale sembrava chiusa si riapre di nuovo. Questo per quanto riguarda il calcio. Per quanto riguarda il motomondiale invece c'era un gran premio in Spagna. Non bene Valentino Rossi, decimo, con tanti problemi sulla moto. Vince Pedrosa, secondo è Marquez, quindi doppietta Honda, ma terzo per la prima volta finalmente un sorriso per la Ducati con Jorge Lorenzo. Simone, allora grazie Carlo, ti ritroveremo come sempre alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo naturalmente e iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo proprio da Pomezia tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle elezioni in Francia, perché è arrivato tra l'altro il dato finale, Macron al 66%. Ci siamo occupati delle migliaia di migranti salvati nel fine settimana in mare e di due nuovi naufragi con 200 vittime, della relazione annuale della Consob e di Milano, dove si apre Tutto Food e poi è previsto anche un intervento del presidente, l'ex presidente americano Barack Obama, ad un altro appuntamento parallelo a quello di Tutto Food, Seeds and Chips. E poi abbiamo parlato dell'export italiano per quanto riguarda il mondo del food. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo da Pomezia, dove c'è stato questo incendio e a 3 giorni di distanza ancora, insomma, non è chiaro che cosa ci fosse in quell'azienda, che cosa è andato in fiamme. Nel frattempo sono state prese delle misure d'emergenza a tutela di tutto e si cerca naturalmente di indagare. Siamo in linea col sindaco di Pomezia, Fabio Fucci. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, come si diceva, a 3 giorni di distanza non sappiamo ancora esattamente che cosa sia bruciato dentro quell'azienda. Com'è possibile, sindaco? Beh, sono state ovviamente fasi molto concitate e le prime ore ovviamente hanno visto un intensificarsi delle operazioni, soprattutto operate dai vigili del fuoco, con l'obiettivo di contenere l'incendio e di limitare le emissioni in atmosfera. Quindi in queste ore ovviamente tutte le energie si sono concentrate sul contenimento del potere diciamo, di fiamma dei cumuli presenti all'interno del sito. Ci stiamo coordinando con ASL ed ARPA per intanto fare il punto sulle informazioni che i vari campionamenti che ci sono stati in questi giorni in città ci daranno, e quindi una volta avute le risultanze analitiche coordinare una serie di iniziative a tutela della salute pubblica. E voi o la ASL o l'ARPA, da quel che le risulta naturalmente, e poi questo lo vedrete quando vi confronterete con ASL e ARPA, non avevate informazioni precedenti su questa azienda, cioè su che cosa ci fosse, se effettivamente ci fosse dell'amianto incapsulato nel tetto? Incapsulato, lo chiariamo agli ascoltatori, e l'incapsulare l'amianto è un metodo, per così dire, di bonifica dell'amianto stesso, cioè vuol dire che in quel caso si è intervenuti incapsulando l'amianto per evitare che si rilascino le fibre, che sono ovviamente quelle pericolose, quelle che a lungo termine possono portare ai danni e anche alla morte. Nessuno aveva informazioni di questo tipo, a quanto abbiamo capito, perché il direttore dell'ASL dice che l'ha saputo dai vigili del fuoco che sono intervenuti. Ma questo, diciamo, è in corso di accertamento, nel senso che il censimento delle coperture di amianto e di Eternit è obbligatorio ed è stato disposto da un'ordinanza comunale di qualche anno fa, emanata di concerto con l'ASL. I provvedimenti, diciamo, di contenimento previsti a tutela della salute pubblica erano proprio quelli della rimozione o del trattamento per evitare la dispersione in atmosfera delle fibre. Quindi in questa fase ovviamente stiamo in attesa di ricevere da chi si è recato sul luogo ulteriori indicazioni in merito alla natura degli elementi dispersi in atmosfera, per poi diffondere ulteriori provvedimenti se ce ne fosse la necessità. Dal territorio i segnali che vi stanno arrivando quali sono? Abbiamo visto che soprattutto nelle prime ore sindaco, irritazioni alla gola, persone che si sono presentate al pronto soccorso. Adesso le cose come vanno? Vanno un po' meglio? Ci sono state conseguenze ulteriori, più gravi? Di conseguenze gravi non ne sono a conoscenza. Certo è che c'è grande attenzione su questo tema e ovviamente la popolazione è molto sensibile e diciamo che alla prima avvisaglia o sintomi si reca giustamente a disporre delle cure mediche del caso. Chiusura delle scuole anche domani, sindaco? Sì, le scuole resteranno chiuse oggi e domani per consentire una pulizia straordinaria soprattutto delle aree, delle superfici maggiormente esposte all'accumulo, diciamo, di depositi polverosi derivati dalla combustione di questi giorni. Questo per consentire, diciamo, la fruizione di questi luoghi in sicurezza. Certo è, insomma, seguiremo le evoluzioni della vicenda, dell'incendio, delle operazioni di spegnimento e se ce ne fosse la necessità di rimanere con ulteriori provvedimenti. Si parla di 150 aziende agricole colpite dal blocco, diciamo, di raccolta degli ortaggi e potenzialmente a rischio anche per quello che è caduto sul terreno. Più o meno la cifra è questa? Non so dare numeri. Certo è che la zona è ad alta vocazione agricola, oltre che, diciamo, la promiscuità industriale. Quindi questa convivenza ovviamente è una convivenza complicata, anche questi fatti lo dimostrano. Dimostra anche la distanatezza dei piani regolatori di un tempo, però certamente, insomma, il fenomeno viene vissuto con grande preoccupazione anche di chi fa dell'attività agricola, del school business, ma in questo siamo in attesa però di ricevere i dati analitici dell'ARPA che hanno prelevato campioni anche dai terreni e dalle coltivazioni per capire se ci siano depositi dannosi per la salute. La ringrazio, sindaco, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Dunque, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre, poi ci ritroviamo e andremo a parlare di migranti dopo quello che è successo a Milano, come si diceva, un uomo, un richiedente asilo del Mali che si è tolto la vita e una situazione che rischia di diventare complicata anche in termini di accoglienza per la città. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: dalla Francia il dato finale, Macron vince col 66% ed è il nuovo presidente. La prima visita di Stato sarà a Berlino. Migliaia di migranti salvati nel fine settimana, due naufragi, ci sarebbero 200 vittime. Le norme sul Benin sono state un fattore di instabilità, lo dice la Consob nella sua relazione annuale. Pomezia, a tre giorni dal rogo, ancora poche certezze, forse amianto incapsulato nelle coperture dell'azienda. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, vi avevamo annunciato un approfondimento sul tema dell'accoglienza dei migranti a Milano, perché si sta presentando qualche problema, l'occasione per così dire di cronaca, è un'occasione di cronaca dolorosa perché riguarda la storia di un ragazzo del Mali, richiedente asilo, che ha deciso di togliersi la vita dietro ogni suicidio, e questo lo diciamo sempre, non sappiamo mai quali motivi veri ci siano dietro, però è un pezzo di questo racconto doloroso e soprattutto riguarda appunto il sistema di accoglienza della città. Avremmo dovuto avere in linea l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino, il quale non ci sta rispondendo al telefono, e dunque passiamo ad altro argomento. Non sarà, come ci scrive il nostro ascoltatore affezionato Aldo, non sarà il tema di Igor, che insomma ancora non si trova, però aspettate, mi dicono che finalmente abbiamo in linea Maiorino. Ce l'abbiamo? C'è Maiorino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, non volevo farmi desiderare, ma complicato parlarsi. Era complicato parlarsi. Allora, la storia l'abbiamo detta, c'è un ragazzo del Mali, richiedente asilo, di poco più di 30 anni, che si è tolto la vita nella zona della stazione centrale di Milano. Come abbiamo detto, i suicidi sono sempre degli atti imperscrutabili. In realtà noi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, metterci delle motivazioni che concorrono alle cause di un suicidio, però non possiamo sapere che cosa c'è nella testa di una persona che si toglie la vita. Di certo questa cosa ha fatto riaccendere un po' i riflettori sul tema dell'accoglienza a Milano, soprattutto dopo la chiusura, o meglio la riduzione della dimensione di un hub, quello di via San Martini, che ospitava circa 400 persone, che adesso progressivamente si sta riducendo. Queste persone, Maiorino, rischiano sostanzialmente di finire in strada o no? No, nel senso che in realtà la scelta che noi abbiamo fatto è solo logistica organizzativa di punti d'accoglienza, ma noi stiamo assolutamente continuando a svolgere l'accoglienza dei profughi, sia i richiedenti asilo che i transitanti cosiddetti, cioè i non identificati, che arrivano nella nostra città e che non hanno un luogo dove stare. Quindi in realtà è solo una questione, diciamo, di indirizzi, nel senso proprio di indirizzi sulla cartina geografica della città. Dunque non c'è nessun tipo di cambiamento su questo piano. Milano continua a svolgere la sua funzione dell'accoglienza. Semmai la vicenda del suicidio, ho detto che sono d'accordissimo con lei sul fatto che quando si è di fronte a un suicidio, in un mondo nel quale la Scandinavia ha il maggior tasso di suicidi in Europa, è inutile star lì a cercare troppe cause che nessuno si può oggettivamente spiegare, però la vicenda del ragazzo del Mali è emblematica di come non funziona il sistema nazionale dell'accoglienza, poiché si tratta di una persona che godeva di protezione internazionale, che era un rifugiato e che doveva far riferimento al sistema di Modena. Questo è quanto è dato di sapere ed è riportato anche oggi su alcuni organi di stampa. Sì, noi non sappiamo cosa facesse a Milano. Certo è che siamo molto dispiaciuti del fatto che quindi non era una persona a noi non solo conosciuta, ma era una persona che aveva un altro sistema d'accoglienza di riferimento e non sappiamo perché. La domanda d'asilo era stata accolta? Sì, da quanto godeva di protezione internazionale. Io credo che avesse fatto anche addirittura un percorso spargia, cioè un percorso di accoglienza nell'ambito di un sistema ad alta intensità, di qualità, insomma, riguardante la protezione internazionale. Quindi siamo di fronte a uno di quei casi che raccontano di come sia sconclusionato il sistema nazionale dell'accoglienza, nella quale persone che sono magari rifugiate hanno diritto per un po' ad essere accolte in alcune strutture, poi van via, poi non si capisce che fine fanno. Insomma, questo è è il momento nel quale stiamo vivendo, però per quello che riguarda Milano, anche se quanto l'hai riportato, diciamo, è stato anche riportato sui giornali milanesi, ma assolutamente lo stiamo smentendo non solo a parole ma coi fatti, non facciamo nessun passo indietro e lavoriamo per accogliere quelli che vanno accolti. La ringrazio, grazie all'assessore Pierfrancesco Maiorino per essere stato con noi, con quale avremmo chiacchierato anche di più, ma in realtà l'abbiamo raggiunto tardi e quindi dobbiamo chiudere perché, come sapete, la puntata del lunedì è più breve. America 24.